La farfalla. C'era una volta un bruco che viveva su un albero. Beh, non era una creatura molto felice. Come odiava il suo corpo ingombrante e lento. Guarda quelle api, guarda quelle formiche e guarda me. Come vorrei poter volare e correre come loro. Ma per quanto ci provasse, il bruco non riusciva a volare. Continuava a strisciare e continuava a mangiare voracemente le foglie. Le formiche cattive non lo aiutavano. Ehi, bruco lento! Quanto mangi? Fai una pausa e lascia qualche foglia anche per noi. Cosa devo fare? Mi sento sempre così affamato. Mangia, piccolo. Tutto questo è solo il processo di crescita. Quanto deve ancora crescere, nonna? Abbastanza. E crescerà in un modo che non lo riconoscerete nemmeno. Mangia e stai bene. Non permettere a nessuno di disturbarti. Grazie, nonna, ma non mi piaccio poi così molto. Adesso non insultare madre natura dicendo questo. Lei ha fatto tutte le sue creature belle. Aspetta, hai ancora molto da fare e sei perfetto così come sei. Ricordatelo! Il bruco continuò a strisciare e mangiare fino a quando l'estate lasciò il posto all'autunno e gli alberi sparsero le loro foglie rosse, arancioni e gialle, facendo sembrare il mondo pieno di fiamme. Mentre le foglie cadevano, piccoli grilli, api e scarabei volavano con le foglie, inseguendole fino a terra. Anche il bruco voleva inseguirle. Ma era troppo pesante e troppo ingombrante per questo. Sarebbe semplicemente caduto con un tonfo. Come vorrei poter volare con queste foglie o correre dietro a loro. Presto, l'autunno iniziò a lasciare spazio all'inverno e man mano i giorni si accorciavano e le notti diventavano più fredde. Un giorno il bruco si sentì assonnato come non si era mai sentito prima. Trovò un ramo forte in cui riposare e avvolse una spessa coltre attorno a se stesso. Quindi, con un grande sbadiglio, il bruco cadde in un sonno molto profondo. Venne l'inverno e con esso arrivò Jack Frost. Cosa abbiamo qui? Lascialo in pace, Jack Frost. Certo, nonna. Quindi venne il re inverno e guardò il piccolo addormentato nella sua coperta. Ehi, piccolo amico, dormi. Dormi mentre madre natura tesse la sua magia speciale su di te. Dormi. L'inverno rimase per 4 lunghi mesi e poi, quando tutto il mondo si fu riposato, piccoli angeli della natura sorsero per svegliare ogni gemma e fiore addormentato. Tutte le creature che avevano dormito nei mesi freddi. I caldi raggi del sole ruppero il ghiaccio e rivestirono la terra con il loro calore e splendore. Anche il nostro bruco si svegliò. Ora che l'inverno era finito, sentiva davvero caldo nella sua coperta e voleva liberarsi. La piccola formica lo stava guardando. Nonna, dorme da così tanto tempo. Si sveglierà mai? Sì, lo farà. Aspetta, si sta muovendo, si sta svegliando. Guarda cosa succede. Quindi la formica osservò. Poteva vedere quanto il bruco stesse provando ad uscire dalla sua coperta. Sembrava un lavoro difficile. Nonna, sembra che stia lottando. Lasciaci andare ad aiutarlo. Oh no, aspettate qui. Questo duro lavoro è buono per lui. Aspettate e guardate. Ma fai come dico. Saprai perché tra un minuto. Passò un bel po' di tempo, ma alla fine iniziarono ad apparire delle crepe nella coperta e il bruco cominciò ad emergere. Ma aspetta, cos'era questo? Cos'è questo, nonna? Dov'è Bruco Lento? Questo è lui? Huh? Oh, oh, ah! Oh, sì! Sono il Bruco Lento, ma non più un Bruco Lento. Sono davvero io, nonna? Sì, sei tu, con le tue bellissime ali. Yuhu! Ora posso inseguire tutte le foglie che voglio, giocare con tutti gli scarafaggi e le api che voglio. Yuhu! Avevi ragione, nonna. Madre Natura ha fatto magie con me. Cara, la lotta che gli hai visto fare per uscire dalla coperta era solo l'esercizio per far sì che le sue ali diventassero forti e lo facessero volare. Non avrei mai pensato che il pesante Bruco Lento potesse volare. È diventato così bello! Non era carino come Bruco? E ora è così bello come farfalla? Tutti cambiamo continuamente. Quindi non dobbiamo mai giudicare nessuno che sia lento o brutto o qualsiasi cosa, perché alla fine diventiamo tutti versioni migliori di noi stessi. Madre Natura ha semplicemente progettato la vita in questo modo. Diventiamo costantemente più forti e belli, non solo nell'aspetto, ma in tutte le cose buone che possiamo fare.